Inizia oggi questa conferenza importante e volevamo sapere da lei quali sono i temi principali che saranno affrontati durante questo incontro. Beh, praticamente si tratta di mettersi d'accordo sulla partenza del protocollo di Kyoto. Questa conferenza è rimasta in sospeso fino alla fine, perché se la Russia non avesse finalmente ratificato il protocollo di Kyoto, sarebbe stata un'altra conferenza teorica, nel senso che con la firma della Russia finalmente il protocollo può partire, quindi da febbraio dell'anno prossimo il protocollo entra in vigore, quindi noi ci auguriamo che il COP10 incominci a rodare i meccanismi per raggiungere l'obiettivo di riduzione dei gas serra. Un obiettivo primario, un obiettivo che rappresenta il primo passo per combattere il cambiamento climatico. Però il protocollo di Kyoto è un protocollo al quale non hanno aderito tutti. Chi c'è e chi non c'è? Il protocollo di Kyoto sicuramente è l'assenza spettacolare è quella degli Stati Uniti, che rappresentano da soli oltre il 30% delle emissioni di CO2. E quindi questo sicuramente sarà un ostacolo che speriamo possa essere superato in un prossimo futuro significa a partire dai prossimi 5 anni, visto che non ci sembra che l'attuale amministrazione statunitense sia effettivamente interessata a rientrare nel meccanismo del trattato. L'assenza degli Stati Uniti quindi pesa come un macigno su questo accordo. Diciamo che dal punto di vista diplomatico, appunto, il cambiamento di fronte della Russia invece è probabilmente stato anche il frutto di un'azione più incisiva da parte dell'Unione Europea e sicuramente allarga il fronte dei paesi più industrializzati, che prende degli impegni quantomeno per la riduzione dei gas serra. In un prossimo futuro, in questo momento infatti il protocollo non li interessa. In un prossimo futuro sarà poi il turno di paesi come la Cina e l'India, che sono paesi in rapida industrializzazione e che diventeranno sempre di più degli attori principali per quanto riguarda la salvaguardia del clima. Il COP10 è un incontro che vuole essere operativo, che vuole appunto segnare, tracciare quali saranno le tappe fondamentali per la realizzazione del protocollo di Kyoto. Ma l'assenza degli Stati Uniti quanto renderà concreto, concretizzabile questo progetto? L'assenza degli Stati Uniti sicuramente non lo rende comprensivo, però c'è un impegno da parte di un buon numero di produttori dei paesi industrializzati, ripeto, l'impegno della Russia fa definitivamente scattare i meccanismi operativi, a questo punto si passa all'azione, cioè tutti i paesi che hanno siglato questo protocollo, che rappresentano più del 50% delle emissioni di gas serra in atmosfera, quindi stiamo parlando di più della metà, si impegnano a ridurre progressivamente le emissioni di gas serra nell'atmosfera. Quindi da questo punto di vista un buon gruppo di paesi industrializzati sta andando avanti, e essenzialmente poi questo sotto la leadership dell'Unione Europea. Di questo non possiamo far altro che esprimere soddisfazione. Ripeto, sarà poi al gioco politico internazionale vedere se gli Stati Uniti proseguiranno nella loro politica isolazionista oppure no. D'altra parte la sfida è molto semplice, la sfida per il raggiungimento della riduzione di emissioni di gas serra passa attraverso un forte sviluppo delle energie alternative, passa attraverso un forte sviluppo dell'energia eolica, dell'energia solare. Sappiamo tutti che in questo momento la politica interna ed internazionale degli Stati Uniti è segnata essenzialmente dall'interesse delle grandi compagnie petrolifere, quindi sono due interessi che collidono e non coincidono. Sarà facile captare l'adesione degli altri paesi, soprattutto dei paesi in via di sviluppo? E questo è un gioco diplomatico globale, nel senso che si è visto con la Russia per parecchi mesi, se non un anno e mezzo, ha nicchiato sulla sua adesione tenendo tutti col fiato sospeso. È un gioco diplomatico globale. È chiaro che l'impegno a ridurre i gas serra è un impegno a gestire al meglio la progressiva industrializzazione di paesi come appunto la Cina e l'India. Dipenderà dalle scelte energetiche di questi paesi, dipenderà da quanto questi paesi accetteranno le loro responsabilità globali per la salvaguardia del clima. A proposito delle energie alternative, ci si mette in mezzo il nucleare molto spesso. Ha senso parlare di energia alternativa per quanto riguarda per il nucleare? Per quanto riguarda il nucleare non ha senso, innanzitutto perché le energie alternative sono energie pulite, cioè sono quelle energie che provocano il minor impatto ambientale. Quindi non si guarda soltanto al livello di emissioni in atmosfera di gas serra, ma si parla di minore impatto ambientale per tutto il ciclo di vita di una scelta produttiva di un impianto energetico, che sia solare, che sia fotovoltaico, che sia una centrale a carbone o una centrale nucleare. Finora tutta la problematica relativa al pericolo intrinseco della conduzione delle centrali nucleari, rispetto al problema dei rifiuti radioattivi, rispetto al problema del legame diretto che c'è tra l'energia nucleare civile e le applicazioni militari e la bomba atomica, pensiamo che se si dovessero tenere realmente in conto gli impatti dell'energia nucleare, sicuramente questa non potrebbe trovare assolutamente posto tra le energie rinnovabili. Si tratta anche qui di un momento politico. Come la politica estera degli Stati Uniti è chiaramente influenzata dal petrolio e chiaramente si muove in favore degli interessi delle grandi compagnie petrolifere, il nucleare rimane essenzialmente una scelta strategica legata a opzioni militari. Vediamo il caso dell'Iran, vediamo il caso della Corea del Nord, nel senso che parlare oggi di sviluppo del nucleare significa continuare la proliferazione atomica a scopi militari. Questo sicuramente non è possibile considerare come un ricorso a un'energia alternativa positiva. Come si presenta l'Italia all'appuntamento? L'Italia si presenta male, appunto. Recentemente l'Enel ha illustrato le scelte energetiche che si dovrebbero fare in Italia e appunto è una scelta del tutto carbone, riteniamo che sia una scelta veramente micidiale se non criminale. Il carbone è appunto l'energia fossile che inquina di più dal punto di vista di emissioni di gas serra e inquina di più anche dal punto di vista dell'inquinamento da metalli pesanti, per esempio il mercurio. È una scelta che ci rimanda indietro agli inizi del secolo, è una scelta totalmente in contrasto appunto con quell'obiettivo, per esempio, dell'Unione Europea, che vede che entro il 2010 il 12% dell'energia prodotta nell'Unione Europea dovrebbe provenire da energie rinnovabili. L'Italia fino adesso è sotto il 9%, quindi ci sarebbero degli sforzi ulteriori per sviluppare l'eolico o il fotovoltaico. Ricordiamo soltanto che l'Italia occupa soltanto il sesto posto a livello europeo nella produzione di energia elettrica da fonti eoliche, ai primi tre posti troviamo Germania, Spagna e Danimarca. L'Italia per il solare è ancora più indietro, praticamente le installazioni per gli impianti solari in Italia sono 15 volte per il fotovoltaico e 10 volte per il solare termico inferiori a quelle della Germania, quindi 15 volte di meno per un verso e 10 volte di meno a quelle della Germania, dove sicuramente di sole ce n'è molto meno. Quindi praticamente siamo ancora al punto di partenza.